Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi. 7:35 minuti, buongiorno a tutti cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati, il buongiorno nel weekend di Radio 24, stiamo insieme fino alle 10 del mattino, 349-238-6666 per scriverci anche su WhatsApp. Cominciamo subito con una veloce rassegna stampa, diamo un'occhiata ai giornali di oggi, fino al GR delle 8, vai, cominciamo. E allora, cominciamo subito a vedere di cosa si occupano i giornali con uno sguardo ai titoli principali che sono, per esempio, per quanto riguarda i principali quotidiani, hanno tutti in prima piano una notizia economica che è: tornano i consumi, Banca Italia vede la crescita più forte. Così scrive per esempio il Corriere della Sera, cambiano le stime sul PIL, anche se il debito resta alto. A proposito del debito, tra l'altro c'è anche un'intervista all'ex premier Mario Monti con la disputa su questa questione del debito e del deficit, questa disputa con Renzi. I due si sono più volte accusati di avere in qualche modo l'altro non risolto le questioni sul tappeto, mettiamola così. Comunque, titolo anche per Repubblica, titolo gemello, Banca Italia, il PIL va nel 2019, il paese cancellerà la crisi, via nazionale, la Banca d'Italia, vede una crescita viaggiare verso l'1,4%, e il Sole 24 Ore scrive così: Banca d'Italia rivede al rialzo il PIL più 1,4%. Scrive il Sole in prima pagina: il PIL crescerà quest'anno dell'1,4%, nella stima precedente invece era valutato dell'1,3% in crescita, quindi un modesto rialzo in queste previsioni, però tant'è. E invece crescerà dell'1,3%, un pochino meno, nel 2018. Banca Italia rivede al rialzo le previsioni sull'economia italiana grazie soprattutto alla spinta della domanda interna, con una espansione di consumi e investimenti a virgolettato ritmi relativamente sostenuti, e a maggio torna a correre il commercio con l'estero, esportazioni a più 13,1% su base annua. A questo proposito voglio leggervi un rapido passaggio che è l'intervista al ministro dello sviluppo Carlo Calenda, che a proposito di questi dati commenta soprattutto quelli sull'export, la domanda di Carmine Fotina. Ministro, lei ha definito clamorosamente positivi gli ultimi dati sull'export. Una crescita, risponde Calenda, del 6,6% nei primi 4 mesi del 2017 è oggettivamente clamorosa. E i dati rilasciati ieri, che includono maggio, segnalano addirittura un più 8% rispetto al 2016. Quindi una ripresa delle esportazioni molto importante, che fa dire al ministro che sono dati clamorosamente positivi. Punto debole è, domanda infatti Carmine Fotina, che cresce sì il fatturato medio, ma il numero delle aziende che esportano non aumenta più. Cioè, sono le stesse aziende che hanno imparato a stare sui mercati internazionali, a competere, quindi a esportare, che aumentano i loro fatturati, ma le aziende italiane che esportano non sono moltissime, sono meno di quello che un sistema come l'Italia, che fa parte del G8, dovrebbe avere, e quindi questo è il punto di debolezza. Infatti, dice Calenda, è questo il vero punto di debolezza: sono troppo poche le imprese che esportano. Questa è la priorità del piano Made in Italy, insieme alla diffusione dei prodotti italiani sulla piattaforma e-commerce. E questo è solo uno spunto per quanto riguarda la notizia economica con cui appunto aprono Corriere, Repubblica, Sole 24 Ore. Poi c'è sulla stampa, il taglio è leggermente diverso perché si va sul debito. Debito record, ma Padoan è ottimista, il PIL cresce. Secondo Banca Italia appunto nel 2019 è possibile il ritorno ai livelli di prima della crisi. E insomma, il fatto che cresca l'economia, cresca il PIL, chiaramente è una buona notizia anche per il debito, perché più l'economia gira, più le entrate fiscali sono in grado anche di compensare il debito italiano e quindi anche la questione del deficit. Sul deficit, sul debito e su queste dispute vi voglio leggere rapidissimamente dal Corriere, in questo caso, l'intervista a Mario Monti, l'ex premier, che dice: Renzi è un disco rotto, ripete accuse a impatto zero, insensato il deficit al 2,9%, la richiesta che Renzi fa di rivedere il fiscal compact, il cosiddetto fiscal compact, che fu firmato proprio da Mario Monti premier, e di rialzare, stando dentro i parametri di Maastricht, fino al 2,9% del debito, il deficit, quindi di rialzarlo. L'Italia, lo sapete, avrebbe a disposizione una leva fiscale, insomma avrebbe a disposizione sostanzialmente alcune decine di miliardi di euro in più che, dice Renzi, potrebbero andare ad abbassare le tasse, in molti sono critici su questa ipotesi, perché comunque alzare ancora il deficit italiano, che ha già l'Italia un debito molto elevato, rischia di essere troppo per l'Italia. Cosa dice Monti su questa intervista? In questa intervista racconta come andò sul fiscal compact, tanto così per fare un piccolo passo indietro, può essere interessante. Il fiscal compact ha un padre, Mario Draghi, che lanciò l'idea nel dicembre 2011, appena diventato presidente della BCE, e una madre, Angela Merkel, che spinse politicamente. Draghi doveva accreditarsi presso il mondo tedesco, che era preoccupato per l'arrivo al vertice della BCE di un italiano, sia pure con ottima reputazione. Draghi decise anche di cessare gli acquisti di titoli di Stato italiani da parte della BCE, che avevano dato ossigeno ai governi precedenti, compreso il governo Berlusconi, fino all'estate e l'autunno del 2011, senza peraltro riuscire a frenare l'impennata dello spread a causa della sfiducia dei mercati verso un governo che non era in grado di prendere i provvedimenti necessari. Quindi arriva Draghi, che deve accreditarsi presso la Germania e smette di comprare titoli di Stato italiani, e spinge per il fiscal compact, cioè per queste regole di bilancio ancora più rigide, che poi l'intervista prosegue. Mario Monti firmò, in quel momento dice: non avevamo scampo, e via andare. Dopodiché la disputa con Renzi, dicevamo, Renzi dice che lei ha lasciato un deficit, che lui ha lasciato un deficit più basso di quello che ha lasciato lei. Monti, l'uomo del rigore, scavalcato in termini di rigore da Renzi. Sentiamo come risponde Monti. Hanno poco significato queste dispute. Molto è dovuto alla spesa per interessi, che Renzi si è ritrovata fortemente ridotta per effetto del risanamento fatto dai suoi predecessori, cioè lui, e dalla politica della BCE. In sostanza, Monti non può negare che il deficit durante il suo governo era comunque un deficit elevato, ma l'Italia doveva pagare, e questo è vero, pur vero, interessi sul debito più elevati di quelli che si pagano adesso, quindi è un discorso matematico. Altra accusa del leader del Partito Democratico, gli chiede Federico Fubini del Corriere: lei non ha saputo trattare in Europa sulle banche, oltre che sul fiscal compact, che appunto ci fu imposto. Il fiscal compact, conclude quindi Monti, l'ho firmato, certo, se in quel momento l'Italia, il paese più a rischio dell'Eurozona, non l'avesse sottoscritto, lo spread sarebbe subito tornato ben oltre i livelli ai quali l'avevo trovato. E va bene, sono in parte cose già sentite, in parte attualizzate da questo dibattito sulla possibilità o meno di derogare dal fiscal compact, una cosa che il ministro Padoan in settimana comunque ha derubricato, ne discuterà di un'eventuale richiesta italiana in questo senso all'Europa nella prossima legislatura. Quindi diciamo, presa di distanza dalle parole di Renzi, accolto più che freddamente poi da Bruxelles, questo ovviamente neanche a pensarci. Andiamo su Il secondo titolo del Corriere della Sera riguarda una vicenda di due giorni fa a Roma ed è il video che riprende l'incidente avvenuto alla metropolitana. Alla guida, distratto dal cibo, e il metrò trascina una donna. Due video impressionanti. Mercoledì scorso, fermata a Termini della linea B della metro a Roma, una donna rimane incastrata nelle porte e viene trascinata via. Per miracolo non muore. In un altro video si vede il macchinista che a treno fermo mangia, chiude le porte e riparte senza accorgersi della donna rimasta incastrata. Un incidente che però adesso questo video apre, diciamo, un'ipotesi diversa, perché se l'autista stava bellamente mangiando un panino o non so che cosa esattamente, io il video non l'ho visto, e non si accorge, che come dovrebbe fare guardando negli specchi, che nelle telecamere che gli danno ampia visibilità, che c'è una donna rimasta attaccata alla porta del convoglio, è un fatto piuttosto grave. È stata ovviamente aperta subito un'inchiesta nei confronti del ruolo di questo macchinista. C'è però un particolare che potrebbe in qualche modo spiegare anche quello che è accaduto, cioè la donna è una donna bielorussa, tra l'altro l'inquadratura su di lei, quando arrivano gli altri passeggeri sono tutti saliti, lei entra ma poi ci ripensa, esce, le porte si chiudono e così rimane con la mano attaccata al convoglio. L'incidente sembra essere dovuto a una borsa o a una busta che rimane all'interno della metropolitana. Il manico forse funge da manetta, le cinge un braccio perché lei cerca di sfilarlo. Se così fosse, si potrebbe anche spiegare perché le porte non si sono subito aperte, perché incastrato non c'era un braccio e neanche il polso di un bambino, qualcosa di grosso, ma qualcosa di molto più sottile, che quindi avrebbe, questa la spiegazione, tradito i sensori mandando il messaggio di una porta regolarmente serrata. Resta il fatto che il macchinista stava mangiando mentre guidava il convoglio della metropolitana. 349-238-6666, traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua. Allora, cari ascoltatori, torniamo sulle prime pagine per la notizia di ieri sera, che alcuni giornali tra l'altro non riportano. Corriere della Sera, centropagina, la foto con gli attentati a Hurghada e Gerusalemme, soccorsi una donna dopo l'attacco, in un tweet di Amr El Kaiz, il giornalista di Al Jazeera, che per primo ha dato la notizia. Assalto al resort, uccise due turiste tedesche uccise a coltellate, altre quattro ferite in modo grave in un resort a Hurghada, una nota località turistica in Egitto, sul Mar Rosso. L'attentatore è arrivato a nuoto sulla spiaggia, è stato poi arrestato dalla polizia. Il giornale scrive a tutta pagina, come titolo principale: sangue in spiaggia, terrore islamico sul Mar Rosso, a Hurghada turiste tedesche ammazzate a coltellate in un resort. Immigrazione, l'Unione Europea mette il guinzaglio alle ONG. E in questo caso invece si torna sul dibattito all'interno dell'Unione Europea e sul codice, cosiddetto codice per le ONG. Invece il Manifesto sceglie di titolare sulla questione incendi, cenere Italia. Insomma, è un bel problema in questi ultimi giorni. Adesso qualche pioggia forse sta arrivando e non ho capito bene esattamente se anche nelle zone colpite dagli incendi, che sono moltissime tra l'altro, magari. Nel bel paese, scrive il Manifesto, è bollettino di guerra. Solo ieri 1200 interventi dei vigili del fuoco, in fumo 26.000 ettari di bosco da metà giugno. In un mese 129 grandi incendi. La media nel periodo 2008-2016, pensate che era di 33, quindi 129 contro 33 grandi incendi. Record in Sicilia, Calabria e Campania. Intanto 16 elicotteri antincendi sono diventati velivoli militari dei carabinieri, alla faccia della protezione civile. E quindi diciamo le polemiche anche per quanto riguarda gli interventi. Poi, come sapete, c'è stata una riduzione del del corpo forestale che è stato integrato nei carabinieri, e quindi è possibile che qualche mezzo di emergenza abbia fatto la fine che dice il manifesto, cioè velivoli militari dei carabinieri anziché veicoli antincendio. E questa è un'altra questione. Allora, invece, sempre da una prima pagina di un giornale di oggi, la foto fra Macron e Trump, il viaggio, insomma la visita di ieri, occasione della festa nazionale francese di Trump in Francia, che scrive Repubblica: Macron, da Trump al dolore di Nizza, il 14 luglio non sarà più lo stesso. Su questa alleanza, su questa diciamo visita, su questo riavvicinamento tra la Francia e gli Stati Uniti, con due presidenti molto diversi, molto molto diversi, beh, basterebbe tra tutto notare la questione delle mogli: Macron sposato con una donna molto più grande di lui, Trump invece con una donna molto più giovane di lui, quindi con tutto quello che questo lascia intendere a livello di immaginario collettivo. Ma al di là di questo, è interessante leggere qualche passaggio dell'intervista di un sociologo francese, Alain Touraine, che spiega alcune cose che riguardano la situazione francese al momento, questo riavvicinamento con Trump. Guida i francesi come Bonaparte, ma ha un governo nato sulle macerie. A proposito di Macron, il riuscitissimo invito del presidente Reietto, sarebbe Trump, è un esempio eccellente di politica internazionale pura da parte di Macron, ossia senza immediati interessi economici e sociali per la Francia, ma che potrebbe domani portare frutti succulenti. Ovviamente Trump è saltato sull'occasione, perché ha pensato che l'amicizia con Macron gli permetterà di fare a meno della cancelliera Merkel, con cui Trump intrattiene pessimi rapporti. Quanto alla premier britannica Theresa May, nei prossimi due anni sarà troppo presa dalla Brexit, va da sé. Nei due giorni parigini mi ha stupito l'ostentazione del comportamento amicale tra i due presidenti, perché per un politico francese non è consuetudine procedere più con questa gestualità corporea che attraverso le parole. Trump e Macron si saranno stretti la mano, dice Touraine, almeno 40 volte, e quindi proprio in una ostentazione voluta di amicizia. Poi ancora un passaggio: Macron sarà il paladino dell'Europa unita, non per il momento, dice Touraine, quindi diciamo togliendo di mezzo un luogo comune. Sebbene sia un uomo molto brillante, dovrà prima risolvere i problemi che qui in Francia cominciano con la legge sul lavoro, perché a differenza della Gran Bretagna e della Francia, la Germania non ha deindustrializzato la sua economia. Londra l'ha fatto perché spera di diventare capitale mondiale della finanza e prima o poi ci riuscirà. La Francia invece, questa deindustrializzazione, dice Touraine, questa scelta voluta da Mitterrand molti anni fa, la pagherà molto cara. E questa dunque la fotonotizia con i due che si stringono la mano e parlottano tra di loro. Chi l'avrebbe detto? Ma del resto i capi di Stato sono così. Ius Soli, Ius Soli, sempre su Repubblica, la frenata sullo Ius Soli. Gentiloni non si arrende, fa la conta nella maggioranza, ma Alfano non offre garanzie. Ieri al termine di un incontro con Gentiloni, Alfano ha detto non sono in grado di garantire la tenuta del nostro gruppo al Senato su questa questione dello Ius Soli, e quindi o il governo frena oppure rivede questa legge, in altri termini, oppure la accantona, come è già successo su altre leggi in passato. Che dire, siamo in chiusura, abbiamo 30 secondi, cioè sarebbe l'intervista alla cugina di Renzi che ha detto che va con Bersani, e questo è un bello smacco. Però lei dice: la nostra è una classica famiglia toscana allargata politicamente, dai trotskisti ai democristiani c'è stato sempre spazio per tutti, io vengo dall'ala comunista, lui da quella DC. È tutto, direi, GR, ci risentiamo subito dopo con Si può fare, ciao, dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. So don't stop. When you dance, dance, dance, feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance. 8:14 minuti, buongiorno a tutti cari ascoltatori da Alessio Maurizi e buongiorno da Carlo Gavardini dalle terre piemontesi del Barolo. Carlo in trasferta perché sei lì a Gozzovigliaro, diciamo la verità. Eh sì, in realtà Gozzovigliaro a fare festa. Sono al Collisioni, sì. Festival, un festival stupendo, ci sono da Carmen Consoli a Max Gazzè, al presidente del Senato Grasso che presenta il libro, a Robin Williams, a Peter Handke, c'è anche c'è anche Carlo Gabardini tra l'altro. Sì, ed è bello che in tutto questo parterre di persone io in realtà sono qui a presentare un contest di pesto. Di pesto, cioè il pesto genovese in Piemonte, perché nelle terre del Barolo, però tutto, esatto, ciò è molto strano, tutto ciò. Esatto, perché c'è, per il campionato del mondo di pesto ci sono tipo le semifinali e io faccio la presentazione delle semifinali, quindi sono molto contento di essere qua. Ma quanta bellezza, cari ascoltatori, 800 24, vi aspettiamo naturalmente per stare con noi, per raccontarci le vostre notizie della settimana, come sempre le vostre buone notizie. Intanto c'è una notizia che non è una buona notizia, però la voglio leggere subito, è un appello, perché c'è l'associazione Agape 2000 di Roma che, visto che il Comune di Roma sta rimettendo in discussione per fare dei nuovi bandi, delle assegnazioni, delle sedi, loro che hanno una sede nel municipio 18° di Roma, gli hanno chiesto di riconsegnare le chiavi, ma loro per fare questo nuovo bando, ma loro lì da molto tempo fanno dei laboratori con le famiglie delle persone disabili che ospitano circa 50 ragazzi e ragazze, quindi sarebbe veramente un peccato. Allora di lì l'appello dei disabili sotto sfratto a Roma: non cacciateci. Sono convinto che in Comune di Roma ci sarà qualcuno che li ascolterà, perché sarebbe veramente un peccato. 800 24 00 24. E poi Carlo, tu sei in Piemonte, sei vicino a Torino, quanto dista Torino? Un'oretta? Sì, in realtà in questo momento sono a Dogliani, sì, alla tenuta Larentania, così per farti venire anche in video sono davanti a una piscina, perché di solito mi chiedi sempre Milano, sì, Monte Rosa, e io invece ti posso dire tenuta Larentania, bellissimo, sole, piscina. Sole, piscina, allora io mi giro per raccontarvi Milano Monterosa, che normalmente fai tu, scusate, ma per, esatto, farlo devo girarmi, quindi mi si sente male sul microfono. Abbiamo un tempo velato, un sole nascosto tra qualche nuvoletta, stamattina c'era anche una certa brezzolina d'aria, non si stava neanche tanto male. Allora, vicino a Torino, Piemonte, si sarà parlato un po' anche lì, ma se ne sta parlando comunque, di Bonucci che lascia la Juve e va al Milan, per i tifosi che in questi giorni sui social, ma ovunque, non parlano d'altro, tradimento, non tradimento, certamente Bonucci è liberissimo di andare a giocare al Milan, figuriamoci poi per quelle cifre, va tutto benissimo, fa tutto parte delle regole del calcio, però siccome la parola tradimento è stata evocata, tu Carlo di tradimenti te ne intendi? Abbastanza, però esatto, domanda a rischio. Però insomma, cari ascoltatori, l'800 24 00 24, raccontateci il tradimento che vi ha fatto più male, quello che avete subito da parte di un amico, a volte anche non solo una compagna, ma anche il compagno, la compagna. Però potete raccontarci anche quello che avete fatto voi, perché a volte il tradimento può essere anche necessario, bisogna anche immedesimarsi, no, nelle persone che in qualche modo cambiano strada, cambiano rotta e tradiscono, perché forse è arrivato il momento di dirsi addio. 800 24 00 24. E allora, Carlo, tu sei fortunato perché non avendo la patente non rischi di prendere mai le multe. Delle multe. Delle... Beh, non è vero, perché le multe le danno anche ai pedoni, ai ciclisti e le danno anche a chi va col motorino, giustamente. È vero. Ma non solo di multe si occuperanno i nuovi vigili di quartiere, i famosi vigili di quartiere che a Milano ci riprovano, il comune ci riprova. Tornano. Tornano 300 agenti dedicati a sicurezza, anziani e commercianti. Allora è con noi il comandante della Polizia Locale di Milano, Antonio Barbato, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie, grazie per essere, per aver risposto al nostro invito, alla nostra convocazione. Allora, noi siamo curiosi di sapere cosa farà, perché al di là della questione, perché i vigili multe è la classica associazione, però sappiamo che qui il progetto è un po' più ampio, cioè proprio si tratta anche di stare sul territorio, controllare un presidio, la vicinanza con i cittadini. Che cosa faranno esattamente i nuovi vigili di quartiere? Beh, innanzitutto il territorio, tutta la città di Milano è stata divisa in 27 macro quartieri su richiesta dei presidenti dei municipi, delle associazioni e dei commercianti, un po' di tutti, e hanno fatto un po' una sorta di relazione per darci idee su quelle che sono le problematiche in tutte le varie zone, che sono ovviamente diverse da municipio a municipio. Ogni quartiere ha le sue, insomma. Cioè. Assolutamente. Allora a questo punto abbiamo programmato dei vigili in bicicletta, sono tre vigili per ogni quartiere, sia di mattina che di pomeriggio, sono supportati da un autoquartiere, un po' come succede per i Bobby a Londra. Un autoquartiere, certo. Quindi una pattuglia. Inoltre la differenza che Milano può mettere in campo rispetto ad altre città è anche il supporto della cosiddetta polizia virtuale, amo chiamarla, quindi tutto il sistema di videosorveglianza che viene controllato dalla nostra città operativa. Pertanto su quel territorio i vigili innanzitutto andranno in bicicletta, intercetteranno le necessità dei cittadini, eventuali denunce, le toste agli anziani, anche bisogno di un semplice consiglio, una consulenza. Ma saranno sempre di gli stessi? Saranno sempre gli stessi che sono in quella zona? Assolutamente sì, saranno sempre loro e quindi diventeranno perché... punto di riferimento, insomma, per i cittadini. Anche per quello che diceva prima, per il fatto che ogni zona ha le proprie problematiche, quindi certo. quando se le studiate non viene trasferito in un'altra zona. Assolutamente. Diventeranno anche, comandante, diventeranno anche dei volti, no? Riconoscibili in qualche modo. Bravissimo. Da parte degli abitanti del quartiere. Però io le voglio chiedere, ce la farete questa volta a portare avanti questa sperimentazione, a sviluppare, a implementare, come dicono quelli che parlano correttamente, questo progetto? Perché se, andando a vedere un po' di cronaca a ritroso, insomma, questa idea c'era stata con la seconda giunta Albertini, alcune centinaia di vigili di quartiere, poi ci aveva riprovato la Moratti in una versione ridimensionata, Pisapia aveva momentaneamente accantonato il progetto, adesso Sala, che sulle periferie ha fatto tutta la sua campagna elettorale, ci riprova. Perché secondo lei in passato questo progetto non è poi decollato effettivamente? Allora, in realtà questo progetto nasce nel 1976 con la giunta Cognoli. Quindi è andato più indietro di noi. Assolutamente sì, e nasce soprattutto perché ci sono stati questi passaggi, non tanto perché i progetti sono naufragati, ma perché nel frattempo la città cambiavano le esigenze e anche di natura operativa cambiavano le esigenze. Pertanto, devo dire, faccio un esempio molto banale: da pochissimo tempo è stato varato una legge sulla sicurezza urbana che non esisteva, le competenze della polizia locale sono modificate. I decreti Minniti. Esattamente, quindi a questo punto è chiaro che i progetti vanno ricalibrati nella storia, però una cosa è chiara, è la costante di volere da parte dei cittadini, ma anche da parte delle istituzioni. Questa figura del vigile di quartiere ci porta a credere che vi è la necessità, e quindi se vi è la necessità bisogna cercare di fare un buon lavoro di organizzazione, soprattutto in programmazione. Mi sta in qualche modo dicendo che in Italia cambiano un po' troppo velocemente e spesso una serie di regole, di leggi, e quindi poi per chi opera nell'ambito della legalità diventa difficile. Sì, certo, infatti ho visto questo. Ho visto che i vigili avranno uno smartphone nel quale potranno leggere i regolamenti, perché giustamente siccome cambia certo. ogni quarto d'ora, glieli mandate online i regolamenti. Via mail, in tempo reale. Allora, lo smartphone è uno strumento fantastico che permette non solo di consultare, ma anche di fare molte segnalazioni. Penso alle panchine divelte, cartelli abbattuti, a luoghi magari a discariche abusive, per dare poi la possibilità ai nostri nuclei specialistici o agli enti che sono preposti di intervenire e cercare di risolvere il problema. Diciamo che vogliamo che la tecnologia sia veramente di supporto alle attività della polizia locale. Oggi siamo partiti, cari ascoltatori, da questo si può fare qua, 800 24 00 24, vigili di quartiere a Milano, tre vigili insieme per due pattuglie al giorno che si daranno il cambio dalle, se abbiamo letto bene, dalle 7:30 del mattino fino alle 8 di sera. Esattamente. Giusto? Due, invece i vigili di chiesa vanno in tre. Sì. Sì, i Ghisa vanno in tre e vanno con di supporto sul loro quartiere, con autoquartiere, come dicevo prima, che appunto serve magari in caso di necessità. Ma saranno armati? Sono sempre armati, i nostri sono armati dal 1860. Ma armati di cosa? Sono armati di arma. No. Innanzitutto tablet dello smartphone, poi dopo ovviamente come tutti gli altri agenti di polizia locale hanno la loro dotazione di servizio, che è la radio, e l'arma che si spera non si debba mai usare nella vita, e tutto quello che serve, soprattutto il cervello. Ma invece ho letto che saranno affiancati, questo credo più avanti a ottobre, sì, da stagisti, sì, madrelingua, in modo che possano, sì, comunicare con le comunità straniere, che questa mi sembra una bella cosa novità. Intelligente, ma soprattutto perché questi stagisti arrivano tutti dalle università, e in particolare siccome nelle varie zone di Milano le comunità sono diverse, penso alle comunità sudamericane, che quindi creano magari qualche problema relativo alle domeniche nei parchi, no? Loro, sapete, si riuniscono tutte le domeniche, fanno festa, e quindi poi ci sono i reclami dei cittadini. Dall'altra parte, magari dove ci sono le comunità islamiche, piuttosto che comunità di altre nazioni, dove è chiaro che intercettare le persone con persone che conoscono la lingua, non solo, conoscono soprattutto la loro cultura, diventa fondamentale per noi, per avere informazioni e non fare stupidaggini magari nel semplice comunicare, e dall'altra parte per raccogliere informazioni che possono essere utili a noi e nei casi più difficili magari anche alle altre forze dell'ordine. Senta, ma il milanese medio, come l'italiano medio, il cittadino medio, è preoccupato di una sola cosa fondamentale, cioè della questione delle multe. Le leggo un pezzo del, sì, Milanese Imbruttito, che dice: i nuovi vigili, perché insomma, per chi è di Milano sa cosa vuol dire, per chi non è di Milano è una, diciamo, una satira che viene costantemente proposta. C'è anche una pagina Facebook nella quale si ironizza sui peggiori difetti del milanese automobilista, in questo caso, sì, parlando di voi, dice: saranno il primo punto di riferimento per i cittadini sul territorio, certo, ma allo stesso tempo coloro ai quali è stato dato un compito assai in staccare una spiacevole sfilza di multe sulle nostre macchine, fondamentalmente. Ma è vero che c'è una sorta di tolleranza zero annunciata, oppure no? Allora, c'è una sorta di tolleranza zero annunciata soltanto su alcuni tipi di soste, le soste cosiddette odiose, passi carrai, spazi invalidi, certo, passaggi pedonali, macchine abbandonate agli incroci, sopra i marciapiedi dove non si può partecipare, dove si può passare, e questo sì, su questo siamo intolleranti. Quindi tolleranza ovviamente zero, però questo c'è sempre stato, comandante. Ma certo, assolutamente. È tipico di Milano, e d'altronde è quella che, tra virgolette, è la città che stacca più multe, ma non tanto perché le fanno solo i vigili, e perché, come dicevo, c'è un grosso sistema di telecamere che prevede appunto accessi che sono negati a chi non può entrare. Se uno entra, lo sa che entra. Assolutamente. Senta, ma l'altra cosa, no, è questa cosa delle soldi, delle multe, che si dice, c'è una legge anche che lo prevede, devono essere reinvestiti una parte almeno nel miglioramento della mobilità, no? Ma sì, questa sembra quasi un po' una leggenda metropolitana, ma è vero questo? Cioè, come si fa, se uno volesse verificare la veridicità di questa affermazione, ogni 50 euro di multa staccata, quante vanno nel miglioramento, allora, della mobilità? Guardi, questo lo prevede l'articolo 208 del codice della strada, quindi una legge proprio legata alla mobilità, il codice della strada. Ma nel comune di Milano questo avviene, assolutamente rispettando i parametri, e non solo, basta guardare i bilanci e si capisce che vengono fatte le migliorie su tutta la città dal punto di vista strutturale, e vengono effettuati anche sotto il punto di vista della implementazione, come diceva lei prima, magari anche di quelle che sono le cose che servono per lavorare i vicini. Però non c'è un modo per verificare questa cosa qua. Sì, cioè, sì, sul bilancio. Sul bilancio. No, basta prendere il bilancio del Comune di Milano e si vede, c'è scritto tranquillamente che quelli sono i proventi delle multe, quanto fino al centesimo viene impiegato per le migliorie delle strade, illuminazione, lampioni, sicurezza urbana, attività. E poi si verifica per strada, diciamo, nel senso che e per poi una si volta verifica per strada, bravo. Che la mobilità a Milano funziona bene grazie a tutte le multe. Assolutamente, bisogna, anche per quello, una volta ringraziamo gli indisciplinati. No, certo, assolutamente. E i vigili che gliele fanno. Pagano. Che grazie al vostro contributo, cari automobilisti indisciplinati, esatto, che a Milano ci sono tanti mezzi pubblici. Forse un po' è anche esatto. Così. Senta, tra i modi in cui vengono investiti questi soldi per la mobilità, sì, adesso si vedono tanti interventi sulle piste ciclabili in città a Milano, ma la stessa cosa sta avvenendo un po' in tutta Italia, perché c'è un grande movimento, si apprezza di nuovo le virtù dei ciclisti. Vedo a volte delle ciclabili un po' strettine che vengono fatte. Per esempio qua in via Monterosa, tanto per fare un esempio, una strada larghissima, sono state riprese, migliorate due piste ciclabili, sono un po' strettine. Succede ogni tanto, può succedere, che poi il ciclista non le utilizza, ma in quel caso io le voglio chiedere, a parte il fatto che le rivolgo un appello da girare al dirigente del comune che fa le piste ciclabili, di farle larghe o di non farle, perché sennò certo, non servono a nulla. Non so lei cosa ne pensa. No, io penso che una città come Milano servano assolutamente, perché danno la possibilità innanzitutto di fare dei percorsi protetti. Ovviamente io vedo che non solo non vengono utilizzate da chi magari pensa che siano un po' troppo strette. Ma però lo pensa, ma forse è vero, però, perché sì, poi forse se no il ciclista scusi, mettiamoci nella mentalità, il ciclista, no, c'è anche il ciclista indisciplinato, e quello bisogna ricordarlo, certo, sempre di non fare cose troppo spericolose, certo, però se certo, uno ha la possibilità di andare in una situazione più tutelata ci va, ma se la pista è larga un metro con due cordole di cemento altri 20 centimetri a lato, forse non è percepito come una cosa così io penso che questo possa anche accadere, nel senso che succede che magari una pista paia, perché poi sono tutte calibrate ovviamente per quanto riguarda il codice della strada, hanno le dimensioni che devono avere, però spesso i ciclisti normalmente non utilizzano le piste ciclabili, ma vanno sulla strada, sulla carreggiata, e questo però voglio dire è una scelta che uno può fare, la pista c'è, non la utilizzi, ma è un'infrazione. La domanda che le volevo fare, se un ciclista di fronte in una strada dove è presente una pista ciclabile non la utilizza, qualcuno intanto dice, però questa dovrebbe essere considerata infrazione, è un'infrazione o no? Assolutamente no, non è previsto, cioè è previsto che ci sia una pista ciclabile riservata, ovviamente la carreggiata normale è riservata a tutti, quindi a tutti, non può essere obbligatoria, certo, la utilizza anche il pedone a volte per attraversare, anche se non ci sono le strisce pedonali, quindi è lì una scelta proprio del singolo. Ma quale dovrebbe essere secondo lei la misura minima di una pista ciclabile perché venga usata effettivamente, secondo lei? Ma guardi, le piste ciclabili che ci sono a Milano, ma in tutta Italia, hanno il calibro esatto, e devo dire la verità, è chiaro che a chiunque, immaginando invece di avere una bicicletta, di avere un tir, potremmo anche dargli un'autostrada intera. Ma io non credo che il problema sia la larghezza delle piste ciclabili, che tendenzialmente è uguale, in un metro si passa tranquillamente. Il problema delle piste ciclabili è che sono interrotte, allora uno inizia a mettersi dentro nella pista ciclabile perché dice tanto fra tre mesi devo tornare. Questa è una riflessione che è molto chiara e corretta, perché bisognerebbe ampliare, avere tutta Milano completamente, diciamo, corredata di piste ciclabili. Sì, allora tra tutta Milano e questi brandelli di ciclabili che finiscono, ha ragione Carlo, e che questo anche bisogna dirlo, a volte iniziano e finiscono questo, 100 metri dopo, comandante, visto diciamo la sua disponibilità, giri questi nostri appelli, non lo so, all'assessore, al dirigente. Ecco, ci mancherebbe. Lavoriamoci. lavoriamoci su. Va bene. No, ma penso che su Milano si stia lavorando tanto, nel senso che c'è un investimento costante e continuo sulla mobilità e quindi sulla ciclabilità. Un appello però lo faccio anche ai ciclisti: non andate contromano, non andate sulle strisce pedonali pedalando, cercate sui marciapiedi di non anche in pedoni, perché sui a volte il ciclista, siccome non vuol rischiare giustamente dal suo punto di vista di l'impatto con la macchina, però poi finisce che va sul marciapiede e allora rischia l'impatto col pedone, che a quel punto diventa bravissimo, la parte debole, e non va bene neanche questo, non va bene. Assolutamente. Le volevo fare un'ultima domanda molto stupida, ma i nostri nuovi vigili di quartiere avranno il vecchio cappello da ghisa, quello no, a mettone? No, hanno il caschetto come tutti gli altri ciclisti dovrebbero ma fare. Ma io speravo, perché quello non vale come casco? Il cappello da ghisa non vale come casco? No, pensavamo allo scafandro da palombaro, ma evidentemente è un po' troppo complicato. Abbiamo pensato a un semplice caschetto. Quindi somiglieranno più a Fabio Aru che non ai vigili quelli famosi del film probabile di Totò, ecco. Esattamente. Grazie al comandante Antonio Barbato della Polizia Grazie Locale mille, di Milano. Comandante. Buona giornata. 800 24 00 24, ascoltatori, siamo partiti da questo: si può fare, vigili di quartiere, Milano ci riprova, vedremo se funzionerà. Intanto la sperimentazione è già partita, potete raccontarci quello che accade nelle vostre città, magari ci sono già delle altre città dove si sta facendo la stessa cosa, oppure se siete di Milano raccontateci quello che state vedendo, come sta cambiando da questo punto di vista il panorama della città. Ci risentiamo tra poco, 800 24 00 24, anche con i vostri interventi sul tradimento. Dopo che Bonucci lascia la Juve per il Milan, vi chiediamo il tradimento che vi ha fatto più male, oppure il tradimento che avete fatto voi, perché a volte può capitare che si sia in qualche modo spinti a dover cambiare strada, si senta la necessità di farlo, bisogna immedesimarsi anche in chi ha tradito. 800 24 0024. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 800 24 00 24, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e buongiorno da Carlo Gabardini, in collegamento dalle terre di Barolo. Carlo si trova lì per il Festival Collisioni. Anna da Milano, esatto. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, ho piacere di sentirvi. Bene, anche per noi, Anna. Buongiorno. Cosa volevi dirci? Ma io ho sentito il servizio precedente sui vigili di quartiere, che trovo che sia veramente un'ottima idea, perché sì, ha bisogno di avere questo controllo. Milano ormai è una città europea, dovrebbe adeguarsi a tutto. Però non ho capito bene la storia del telefono, perché io i vigili al telefono li vedo molto spesso. Cioè lei dice che stanno anche troppo tempo al telefono, nel senso che parlano al telefono per i fatti loro. Sì, io adesso in questi momenti di calura che ci sono, sì, a Milano ne vedo ogni tanto agli incroci. Ma magari che sono al telefono con la centrale, però, o no? Però siccome li vedo da una postazione fissa, vedo che stanno tanto, cioè nel sì, senso che chi lo sa, io non lo so esattamente lei che cosa può aver visto, ma insomma, diciamo, se no, adesso idealmente però, giriamo dico, questa cosa. Sì, sì? Se vanno in bicicletta e parlano al telefono, veramente un cattivo esempio. Sì. Perché no, io ma non credo, in Anna, in parleranno al telefono, useranno, grazie Anna per averci chiamato, useranno lo smartphone quando non vanno in bicicletta. Questo penso che il buon senso, insomma, sia questo. Idealmente giriamo comunque questa sua segnalazione a Milano, i vigili che stanno al comandante che ci starà ascoltando. Io esatto, penso, sicuramente, quindi questa è un'occasione. Andiamo con Stefano dalla provincia di Latina, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Cattivo esempio sono io, volevo parlare di un tradimento che ho commesso io. Ah, bravo, vedi? Ai danni di un amico. Avevo 20 anni, un contesto internazionale, lavoravo sulle navi, sì, e quindi ci si trovava la sera a giocare a Risico. Risico, dovete sapere, è un gioco internazionale, tutto il mondo conosce Risico. Sì, certo. E quindi giocavamo io, il cileno, il francese, l'americano. D'altronde sembra è il gioco della guerra mondiale, quindi esatto, non è coinvolto tutto il mondo, sarebbe triste che fosse solo l'Italia. E come spesso accade ci si allea, no? Con l'amico contro le armate gialle, per esempio, no? Sì. Certo. Allora io mi sono alleato con il mio amico cileno per sconfiggere il francese, solo che a un certo punto era necessario, perché in realtà il mio gioco era proprio quello di sconfiggere il cileno, lui non lo sapeva. Ho aspettato che lui si esponesse, sono entrato nelle sue difese e l'ho sconfitto completamente. Ma tu sei uno stratega, Stefano, sei uno stratega pazzesco. Ma questa cosa mi è quasi mi è costata praticamente l'amicizia, ci ho offeso tantissimo. Perché se l'è presa male il cileno. Malissimo, non mi ha rivolto la parola per un mese. Ma pensa immagino, anche perché è un po' un antico vizio degli italiani, ecco. Esatto, quello di essere andiamo alla seconda guerra mondiale. Dai, beh, tutto ciò è bellissimo, però devo dire che immaginarvi su una nave che solca i mari del mondo, tu il cileno, il francese, cioè che anziché fare chissà cose straordinarie che uno si può immaginare, feste di altro tipo, giocavate a risico. Vabbè, è così. Stefano, grazie per averci chiamato. Facciamo anche Riccardo, vai velocemente, la Bologna. Riccardo, benvenuto, vai. Buongiorno. Io ho 55 anni, posso essere considerato quasi un vecchio trombone ormai, no? Beh, aspetta, dai, aspetta un attimo, che se no tra un po' arriviamo anche noi. In Italia 55 anni si è un giovane. Sì, una giovane allora, promessa. Perfetto. Allora sono un bambino. Detto questo, alla sera spesso volentieri, facendo il maestro di judo come passatempo, chiudo la palestra, sì, e sono 9:30, 10, faccio il giro della palazzina, sì, e chiaramente... E ci sono quelli che mangiano la pizza, buttano la carta per terra, quelli con la bottiglia, quelli che scrivono sul muro e tutt'altro. Benissimo. Mi piacerebbe che la tolleranza zero non fosse solo nelle multe, ma siccome sono sempre gli stessi e ho parlato col comandante dei vigili 1000 volte, magari una pennellatina gliela facessero dare. Una pennellatina? Ecco, esatto. Cosa sarebbe nel tuo gergo una pennellatina, Riccardo? No, nel senso, signori, dotatevi del barattolo, della vernice, ripuliti i muri, tira la domenica mattina, tornate qui, tirate su una carta, raccogliete i cocci delle birre. Scusi, ma lei è un maestro di judo, secondo me la può risolvere da solo questa cosa. Ma infatti io sono molto credibile, perché è Molinella, il paesino di Vigor, e diciamo mi conoscono, quindi sono molto credibile, e di fronte a me raccolgono le birre e la carta. Non è quello il problema, certo. Il problema è il giorno dopo, capisce? Quindi insomma. Vedi, perché alla fine i vigili urbani sono un po' come gli insegnanti a scuola, no? Qualunque questione, qualunque problema, dal bullismo alle carte della pizza, ci devono pensare la scuola, oppure i vigili urbani. 800 24 00 24, grazie anche a Riccardo per averci chiamato da Bologna. Traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too. For the wonderful. Ah, quanta distensiva bellezza in questa canzone. E il mondo, caro Carlo, è un posto, sì, meraviglioso, sempre di più, soprattutto quando le donne diventano protagoniste, o almeno si avvicinano al protagonismo maschile. Io voglio salutare Farian Sabahi. Buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Ascoltatori Radio 24 conoscono bene, buongiorno. Lei è docente universitaria, ma è anche una giornalista e l'abbiamo sentita tante volte. Farian, la notizia è questa: per la prima volta una donna a capo della compagnia aerea di bandiera dell'Iran. Una notizia, io stavo per fare quasi la battutaccia, che la notizia è che l'Iran ha una compagnia aerea, però in effetti venendo dall'Italia, che abbiamo il record credo mondiale di fallimenti di compagnia aerea, quindi noi non ce la possiamo proprio permettere una battuta del genere. E tra l'altro di donne ai vertici delle aziende in Italia non ce ne sono poche, delle grandi aziende nazionali. E invece per l'Iran che notizia è questa? In Iran abbiamo rischiato di avere una donna presidente, perché ci sono state comunque nelle ultime elezioni presidenziali un bel numero di candidature. C'è stato anche un momento in cui sembrava che a candidare una donna fosse addirittura il fronte conservatore, proprio uno schiaffo in faccia a Trump. Oggi la notizia è che Farzaneh Sharaf Bafi, che ha 44 anni, è diventata amministratrice delegata dell'Iran Air. Prima c'era un uomo, Farhad Parvaresh, che è stato nominato invece a capo dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile. Ma di fatto Farzaneh è una donna che ha fatto tutto un percorso istituzionale, perché era a capo dell'Iran Air Research Department. È stata anche la prima donna in Iran a conseguire un dottorato in ingegneria spaziale. E un po' riflette i trend della società iraniana, perché nell'Iran di oggi due matricole su tre, due laureati su tre sono di fatto donne, donne che prediligono, come anche gli uomini, di fatto le materie scientifiche. Solo l'8% della popolazione universitaria iraniana sceglie materie letterarie, umanistiche, perché con una laurea in scienze politiche cosa vuoi fare? Quindi diciamo l'idea della donna ingegnere, che ancora da noi può suscitare qualche battuta o qualche sorpresa o uno che sgrana gli occhi, cioè, in Iran sta diventando la normalità. È proprio un modo per emanciparsi, avere un buon lavoro che ti dia un buon reddito, sì, è un buono strumento per emanciparsi, per scalare un attimo i gradini di questa società che sembra chiusa in realtà non meno di quanto pensiamo. Quindi tra l'altro in questi tempi che... dopo le sanzioni sto tenendo dei corsi sul business, sto cercando di spiegare agli imprenditori italiani come si fa business in Iran, perché le regole sono un po' diverse. Una delle cose che dico subito è: attenti, gentili signori, perché se vi sedete al tavolo della riunione e c'è una giovane donna, non è l'interprete, non è la segretaria, ma nella stragrande maggioranza dei casi è l'ingegnere con cui dovete discutere le specifiche tecniche. Esatto, magari non il capo, però comunque l'ingegnere che vi fa le pulci sulle questioni tecniche. Certo. Ma mi scusi, io però c'è una cosa che trovo incredibile, nel senso che la notizia a me sembra straordinaria di una donna che dirige la compagnia aerea, o come sta dicendo lei adesso che ci sono anche tante altre donne, ma come si coniuga questo ruolo con il fatto che però poi le donne in Iran, lei non può abbandonare lo Stato senza il consenso del marito, oppure mi sembra di aver capito che il voto nelle testimonianze in tribunale vale la metà di quello di un uomo. Sì, diciamo che allora la questione della testimonianza della donna, che vale la metà, è in realtà uno dei punti cruciali del diritto islamico, ma ci sono delle eccezioni, cioè se una donna ha le stesse competenze di un uomo, per esempio perché è medico legale, allora la sua testimonianza vale tanto quanto. Gli integralisti vale dicono in realtà 0,75? No, pari. No, però è un modo per togliere responsabilità alle donne. No, ma dico, come donne, può essere? Come... ma non è tutta colpa della Repubblica Islamica, perché guarda, il fatto che ci sia necessario il permesso del marito perché la donna esca dal paese è un'eredità della monarchia, perché quella era una delle norme del codice persa. Però per esempio, Farianna, non è colpa degli ayatollah. Ecco, ma per esempio certo, ci sono altri paesi dove addirittura le donne per uscire di casa in certi casi devono avere un accompagnatore in certe situazioni. Paesi del Golfo, per esempio, in Iran non è così. L'idea del guardiano di cui tanto si discute in Arabia Saudita. No, in Iran le donne lavorano, studiano, e paradossalmente proprio perché in Iran c'è una pulizia religiosa e c'è la segregazione dei sessi, per esempio, sugli autobus, sui mezzi pubblici, quindi di fatto i genitori non si fanno tanti scrupoli, perché comunque le ragazze non rischiano la pacca sul sedere in autobus perché si siedono nella parte posteriore riservata alle donne. Quindi anche l'obbligo del velo, di fatto l'obbligo del velo che tanto impedisce in Occidente, o comunque ha dato sui nervi alle donne della borghesia iraniana, di fatto è stato quello che ha permesso a tantissime ragazze dei ceti sociali più bassi di andare all'università, ragazze che ormai sono donne, perché la Repubblica Islamica è data dalla rivoluzione 79. Ma secondo te adesso queste donne che hanno, come dici tu, anche proprio per il fatto di rientrare comunque in questi parametri, uscendo per esempio con il velo, vorrebbero toglierselo adesso questo velo? Secondo te c'è un movimento di questo tipo, oppure si convive pacificamente con questo tipo di tradizioni? C'è sicuramente un movimento per togliere il velo, l'abbiamo visto su Facebook, ci sono persone, anche uomini, che si fanno fotografare con il velo in solidarietà alle donne, però queste donne fanno parte, io credo, di quello che si chiama femminismo islamico, quindi sono dentro al sistema e utilizzano il sistema per andare avanti. Farzaneh Sharaf Bafi, che è diventata amministratrice delegata dell'Iran Air, è una donna di 44 anni, di cui abbiamo letto sui social network, sui giornali, che la prima lezione in università se l'è fatta 2 giorni dopo il parto, quindi vuol dire che i figli li ha fatti prima, dopodiché ha fatto la sua carriera. Questo avviene per esempio anche in Pakistan. Io in Pakistan 20 anni fa avevo conosciuto una donna pilota, però era diventata pilota, aveva fatto tutti i corsi dopo aver dato vita a 2 bambini, dopo aver dimostrato di essere una brava moglie con il supporto della propria famiglia. Ma secondo me questa notizia in realtà di Farzaneh Sharaf Bafi va letta nel dopo sanzioni e soprattutto quello che sta succedendo all'Iran Air, cioè non è un caso che abbiano messo una donna. Ricordiamo che l'Iran Air ha acquistato 30 aeromobili 737 per un valore di 3 miliardi di dollari, oltre a 20 ATR, 80 Boeing e 112 Airbus. Il primo Boeing arriverà nell'aprile del 2018. Quindi un'espansione anche, un'espansione. Sì, anche un modo, un'espansione, ma anche un modo per dire al mondo, guardate che in realtà dobbiamo... siamo chiusi come voi pensate. Poi c'è tutto dobbiamo un discorso salutarci, Farianne, perché abbiamo esaurito il tempo a disposizione. Grazie per essere stata con noi. 800 24 00 24, ascoltatori, ci risentiamo dopo il GR. Era più tardi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Che spiegare la differenza fra New York e Los Angeles. L'ho già dimenticata, ma penso che stanotte mi giocherei l'America con te. Accettare la fine di un sogno non è molto più facile che spiegarti la differenza fra equilibrio e vertigine, fra le tue notti brave e le mie tasche piene di tutto quello che non so di te. Prendi questo amore in mano, metti sullo stesso piano il silenzio e le parole. Prendi la mia vita in mano, giuro sopra questo piano che vorrei poterti dire. Noi chi siamo? Noi chi siamo? Noi chi siamo? Eccoci qua, Rafael Gualazzi, La fine del mondo, e questo è il nostro Si può fare in musica di oggi. Cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, e vi ricordo che questa è la canzone, tra l'altro, che ci ha scritto Roberta da Manduria. Scriveteci, inviateci i vostri Si può fare in musica alla mail si può fare @radio24.it oppure sui nostri profili innumerevoli social, si può fare @radio24, la pagina Facebook, @si può fare24, l'account su Twitter, e c'è anche il mio chiocciola Ale Maurizi. Abbiamo in collegamento all'800 24 00 24 questa mattina, siamo partiti dalla sperimentazione del vigile di quartiere a Milano, poi abbiamo parlato della prima donna presidente di una compagnia di bandiera in Iran, ma vi chiediamo anche di chiamarci per raccontarci il tradimento che vi ha fatto più male, cari ascoltatori, un po' come la vicenda di Bonucci che lascia la Juve per il Milan, di cui si sta parlando tantissimo in questi giorni, nei bar, sui social, da tutte le parti. Qual è il tradimento di un amico, di un compagno, di una compagna che vi ha fatto più male? Oppure, al contrario, il tradimento che avete fatto voi? Perché a volte può capitare che si renda necessario, improrogabile, cambiare rotta, cambiare verso, cambiare strada, tradire qualcuno. 800 24 00 24. Ci ha raggiunto di nuovo anche Carlo. Ciao Carlo. Eccoci qua in collegamento dalle terre di Barolo. Andiamo con Giampiero, che ci chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti, sono Anni Guarda e sono un po' come ma dire non sei ricoverato, no? Guarda, sono uscito adesso dalla bici, ma qui è una periferia, non sto a dirvi... No, perché Niguarda è anche il nome di un ospedale, ci tenevo a dire. È un quartiere bellissimo, residenziale, dove stiamo attivandoci anche come controllo del vicinato, ma ci sentiamo un po' traditi dal comandante Barbato. Siamo stati il 27 giugno dall'assessore Rozza. Aspetta un attimo, perché devo spiegare agli ascoltatori, sei andato di fretta. Allora, il comandante Barbato è il comandante della Polizia Locale di Milano, con cui abbiamo aperto la puntata circa 40 minuti fa, che ci parlava della sperimentazione del vigile di quartiere. Tu fai parte di un comitato di quartiere e hai incontrato chi la settimana scorsa? Diciamo che abbiamo incontrato in piazzale Beccaria l'assessore alla sicurezza, perché qui la percezione è bassa a livello di sicurezza, siamo in periferia, per farci capire è il luogo dove il picconatore Cabobo, tra l'altro è deceduto in carcere a Bollate qualche giorno fa, creò davanti al comando dei vigili urbani una strage nel 2013. Beh, ecco, qui noi abbiamo chiesto supporto, ma i vigili non ci hanno dato nemmeno la possibilità di averli su WhatsApp. Abbiamo creato un gruppo di WhatsApp per il controllo del vicinato, per avvisarli quando, anche qui ci sono i campi dei rifugiati dalle guerre, qui vicino al campo dove mi trovo. Però ecco, ci piacerebbe essere un po' più ascoltati. Ma non pensi che l'iniziativa del Comune di Milano sia proprio questa dei vigili di quartiere, proprio per venire incontro a richieste come la tua? Ora, io non dico che sia la risposta definitiva o la risposta completa, sicuramente non sarà così, ahimè, però insomma l'iniziativa... Stiamo qui, certo, però ci piacerebbe che non ci togliesse il comando locale, almeno che lo centralizzano in piazza Beccaria o a Livigno, adesso non si sa ancora, però... almeno un paio di telecamere che il comandante ce le potrebbe dare, per quando giriamo in bicicletta magari ci dà un'occhiata e ci fa sentire più tranquilli, perché qui se le rubano. Ma tu hai detto, Giampiero... Sì, ma non solo lì però, perché mi sembra che non è che il problema sia Niguarda, non è che le biciclette rubano solamente Niguarda. Corretto. Giampiero, hai parlato di controllo del vicinato, ho capito bene? È il primo progetto sperimentale che su quattro vie qui del quartiere abbiamo avviato in collaborazione con l'associazione, che in Italia sarà un grandissimo successo. Anche voi, perché noi abbiamo parlato tante volte, questa cosa nasce, non ricordo esattamente dove, comunque in Lombardia, in comuni periferici della Lombardia, e poi va a Proda, per esempio anche a Verona, c'è stato un accordo tempo fa, e adesso anche a Milano. Anche voi utilizzate il cartello giallo, quello con la famiglia che si tiene per mano? Con la famiglia e il vigile che prende sotto braccio i bambini e i genitori, certo. Va bene. Quindi noi siamo in piena sintonia col comandante, paghiamo le multe, ecco, ma magari ci tenda la mano, ci dia la possibilità di avere un commissario nella chat. Dialogo, la parola d'ordine è dialogo con i comitati di quartiere, anche questi gruppi di controllo del vicinato. Io credo che non mancheranno le occasioni. Anche in questo caso giriamo al comandante Barbato, se ancora in qualche modo ci sta ascoltando, questo appello. Paolo da Ravenna anche, buongiorno. Buongiorno. Paola, benvenuta. Paola. Prego. Buongiorno. Su cosa volevi intervenire, Paola? Io volevo intervenire perché avete parlato della prima donna in Iran a capo di una compagnia aerea. Sì. Io sono appena tornata da un viaggio in Iran dove ho un po' cambiato la mia idea di quello che uno, vivendo in Europa, si fa di un paese come l'Iran. Tanto è vero che l'avete detto anche voi all'inizio, ma strano, una donna in Iran. Io ho vissuto un'esperienza... molto bella, perché ho scoperto che sostanzialmente è vero che istituzionalmente le donne hanno dei diritti inferiori agli uomini, ma ho anche scoperto una società molto moderna, molto evoluta, donne che studiano, escono... Le famose donne ingegnere di cui ci parlava Farian Sabai. Esatto, io ho avuto la fortuna di conoscere, perché non sono stata con un viaggio organizzato ma con un'amica... un gruppo di donne che sostanzialmente hanno dei ruoli molto alti all'interno dei musei, all'interno di fondazioni. Quindi la presenza femminile nel panorama iraniano sta crescendo, sta cambiando, si sta rafforzando. E questa Del diritto non è in realtà fondamentale. Nel senso che io anch'io sono contento se vedo che c'è una donna che finalmente riesce ad arrivare al vertice, però lo fa un po' contro tutti. È questa un po' che mi spaventa, perché rimane che se la testimonianza di una donna vale la metà di una testimonianza di un uomo, diventa difficile dire che c'è uguaglianza. L'ascoltatrice Paola, non so se vuole dire qualcosa. Allora, su questo dico che sostanzialmente anch'io ho avuto questa percezione dall'esterno, ma dall'interno si ha una percezione diversa di un'imposizione delle donne, cioè di un cambiamento. Cioè le donne, sintetizziamo così, ci sono ancora queste leggi, queste limitazioni per le donne, però le donne stanno crescendo nei fatti e si stanno anche un po' imponendo e quindi prima o poi si ribelleranno, questo è un po' il sottotesto, a queste regole. Questo è quello che ho capito io. Grazie Paola, in ogni caso è stato interessante fare questo approfondimento sull'Iran, era una buona notizia, però per invertire il corso della settimana di cattive notizie ci vuole il nostro Sipo 5. Le 5 migliori buone notizie della settimana, cominciamo dal quinto posto. Prodotta in Basilicata, la birra Morena vince in America, negli Stati Uniti, lo US Open Beer Championship, il campionato statunitense di birre migliori. C'erano solo due birre europee tra quelle premiate e c'era la birra Morena in Italia, che devo dire la verità è anche a me, io non la conoscevo, Carlo, questa birra, però complimenti. Nemmeno io, dobbiamo farcene mandare delle bottiglie assolutamente. Eh sì. E invece al quarto posto il consesso dell'UNESCO ha assegnato all'Italia altri due siti patrimonio dell'umanità e nessun altro paese al mondo può vantare un record simile. Quindi è veramente un grandissimo premio, nel senso che sono 53 i siti UNESCO che ha l'Italia, che è l'Italia più... È il paese forse più bello del mondo, sì, a questo punto. Non possiamo che... Gli ultimi due? I nuovi due siti aggiunti sono le mura difensive veneziane e l'estensione dell'area dei Faggeti. E quindi siamo in molto Puglia. Contenti. Bene, benissimo. Terzo posto, siamo sul podio. Questa è una notizia scientifica. Si sa da tempo che le maree possono essere utilizzate per produrre energia, un po' come il vento e il sole, però mancava un sistema per prevedere le maree, quindi prevedere i sistemi per sfruttare questa energia. Ebbene, l'Università di Sydney sta mettendo a punto la mappatura delle maree proprio a questa finalità. Quindi, insomma, una bella notizia scientifica che arriva dall'Australia. Secondo posto, Carlo. Secondo posto, una notizia che viene dalla Francia, che più che una notizia è un buon auspicio. Noi speriamo di tornare a parlare di questa notizia presto, ma intanto sulla fiducia la mettiamo sul podio, ovvero la Francia dovrà rivedere il piano dell'aria, o meglio per quanto riguarda, diciamo, le emissioni, perché il piano che hanno proposto non va bene, quindi sarà migliorato, sarà più stringente, sarà più limitante il nuovo piano, che dovrebbe arrivare entro, se ho capito bene, il 31 marzo del 2018. Eh sì, perché è una decisione del Consiglio di Stato sull'iniziativa di Client Earth, ne avevamo parlato, questa ONG che sta dando filo da torcere ai governi di mezza Europa. Primo posto della serie, aiutiamoli a casa loro, però facciamolo davvero, senza riempirsi la bocca, senza però fare un tubo. Questa è un'iniziativa privata. Madonna inaugura il primo ospedale pediatrico del Malawi. Madonna è tornata in Malawi pochi giorni fa per inaugurare un ospedale pediatrico che è stato costruito proprio grazie ai finanziamenti raccolti dalla sua fondazione. Quindi brava Madonna, complimenti, aiutiamoli a casa loro, facciamolo però sul serio. Questa era la prima notizia, buona notizia del nostro Sipo 5. Si può fare. Cronache da un paese migliore. You're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. E per un attimo, Carlo, mi riveniva in mente la notizia, la prima notizia del nostro Sipo 5 di questa settimana, Madonna in Malawi per inaugurare l'ospedale pediatrico, scusa, e mi immaginavo la coda di bambini per farsi adottare da lei, perché lei è un'altra di quelle che, insomma, ne ha adottati parecchi di bambini, credo anche quest'anno, degli altri, per cui Mi immaginavo sì, che è anche uno dei motivi di polemica a volte, sì, per questa questione, perché all'inizio si diceva vabbè, ma tu vai in Malawi a prendere i bambini, e quindi questo è un po' il contrappasso, e quindi sì, poi costruisce l'ospedale, però insomma intanto l'ospedale c'è adesso, c'è un ospedale psichiatrico, sì, a Ridaglie, pediatrico. Allora, alle 9:21 minuti di sabato mattina, tra l'altro ultima puntata, possiamo dirlo, in diretta per ora, si può fare perché poi c'è una piccola pausa estiva, riprenderemo qualcosa ad agosto. Allora, noi siamo sempre grandi tifosi dell'agroalimentare italiano, che ci dà grandi soddisfazioni, però c'è sempre, intanto salutiamo Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti, eccolo qua, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, ci abbiamo sempre questa questione dei mercati internazionali, che insomma in qualche modo ci risentiamo col fiato sul collo, no? Che sono più concorrenziali su alcune cose e sono meglio organizzati, hanno magari meno regolamenti disciplinari di noi, insomma finiscono per accaparrarsi delle quote di mercato che invece il Made in Italy agroalimentare dovrebbe tranquillamente, come dire, stravincere la gara. Una nuova minaccia, se abbiamo capito bene, arriva dal CETA, l'accordo per il libero scambio firmato tra Unione Europea e Canada, non so se si pronuncia CETA o CETA, Moncalvo, come dobbiamo pronunciare? Sì. Diciamo che si potrebbe pronunciare CETA, ma noi italiani lo pronunciamo CETA. CETA, così. Ecco. Anche perché è un prodotto tipico, esatto. Quindi CETA, assolutamente. Noi lo chiamiamo CETA. Potremmo definirlo un OGM dei trattati internazionali, non per usare una battuta. È migliore, questa battuta è migliore. A capire che col diretti non piace. Ecco, esatto, cominciamo subito a prendere distanze dal CETA. Perché? Allora, ce lo spieghi lei, Moncalvo, perché intanto io dico solo che il Parlamento italiano tra i primi sta procedendo alla ratifica di questo accordo che è tra l'Unione Europea e il Canada, un trattato di libero scambio, insomma, per il passaggio delle merci. Perché voi siete molto perplessi e temete per l'agroalimentare italiano? Ma intanto una premessa di fondo: l'Italia è un paese che importa ed esporta anche molto cibo, quindi non siamo alimentati da una visione autarchica per cui non devono uscire le merci dal nostro paese, ci mancherebbe. È importante che noi possiamo esportare, ma è importante che gli accordi internazionali nuovi non siano più costruiti come fino ad oggi, CETA compreso, sono stati costruiti, e cioè avendo come parametro principale di confronto il prezzo e non la parità delle regole di produzione. Noi su questo meccanismo negli ultimi 20 anni abbiamo sempre perso come agricoltura italiana, perché l'agricoltura italiana è sempre diventata merce di scambio rispetto agli interessi di altri Ci settori fa qualche economici. Esempio? Io credo di aver intuito quello che lei vuol dire, nel senso, cioè in un trattato di libero scambio si creano le premesse, si aprono delle autostrade per il passaggio di alcune merci, facilitando tra un paese e l'altro, in questo caso l'Europa e il Canada, però allo stesso tempo, siccome si devono controbilanciare le cose, altre categorie possono rimanere compresse e svantaggiate. Quindi in qualche modo questo è un po' il tranello nel quale l'agroalimentare italiano, lei dice, cade. Ci fa qualche esempio così capiamo meglio? Beh, gli esempi del passato sono molti. Potremmo parlare ad esempio dell'ortofrutta del continente africano, dove l'ortofrutta del continente africano è coltivata con principi attivi chimici che da noi sono banditi da decenni perché pericolosi per l'ambiente e per l'uomo, e poi ci sono sistemi di diritti dei lavoratori che di fatto sono delle forme di caporalato bianco legalizzato, a differenza di un paese come l'Italia che giustamente vuole che i diritti dei lavoratori siano il più rispettati e alti possibili, e quindi si dota anche di una legge sul caporalato. Potremmo ricordarci dell'olio d'oliva tunisino che non ha, dove abbiamo aumentato le importazioni ma senza nessun ritorno positivo per gli agricoltori tunisini, ma abbiamo danneggiato e messo in difficoltà ancora una volta il settore dell'olio italiano. Ricordiamoci che ogni anno noi portiamo nel nostro paese arance a 5, 6, 7 centesimi al chilo che non coprono nemmeno il costo di raccolta, quindi questo è già un tema generale. Il CETA fa qualcosa in più ed è per di ancora più negativo, ed è per questo che noi diciamo no anche al CETA. E cosa qual fa? È la questione, ecco, qual è la questione di fondo? La questione di fondo è che il CETA per la prima volta, ad esempio, legalizza la pirateria alimentare di fatto. Perché? Perché per la prima volta, dopo che da anni come Italia e come Coldiretti in primis diciamo dobbiamo fare la lotta all'Italian Standing, al falso Made in Italy, cioè a quei prodotti che richiamano il nostro paese ma non hanno a che fare con noi, noi con il CETA mettiamo nero su bianco che accettiamo la coesistenza in Canada fra il parmesan e il parmigiano reggiano, fra l'asiago, la fontina, il gorgonzola nostri e delle imitazioni canadesi. Quindi è evidente che creiamo in questo modo qua. Ma sono prodotti già presenti, Moncalvo, sul mercato canadese o grazie al CETA entrerebbero però con queste difficoltà? Ci spieghi un attimo. Perché... Noi di fatto, dopo sì. che per anni no, ci siamo lamentati, abbiamo detto dobbiamo lottare rispetto al fatto che in questi paesi si sì. utilizzano termini come parmesan, asiago, fontina, gorgonzola in prodotti che nulla hanno a che vedere con i nostri veri prodotti, peraltro a denominazione d'origine protetta e quindi profondamente legati non solo all'origine del prodotto agricolo ma anche alla modalità di trasformazione. Noi oggi, firmando, se ratificassimo il CETA, di fatto accettiamo per iscritto la coesistenza e creiamo un precedente molto pericoloso, perché quello che noi oggi concediamo al CETA domani ci può essere richiesto e abbiamo già, ahimè, le prime conferme negative da questo punto di vista, ci può essere richiesto dal Giappone o ci può essere richiesto da qualche paese magari più povero come paese in via di sviluppo, dove sì. addirittura abbiamo ancora più differenze nei sistemi di regole. Ma questo, diciamo, è un trattato che si sta stipulando tra l'Europa, lo ripeto, l'Unione Europea e il certo. Canada. È uno di quei casi in cui l'Europa è un'Europa negativa, che non ci aiuta, anzi in qualche modo ci affossa, cioè l'agroalimentare italiano in questo trattato complessivo che riguarda tutti i paesi dell'Europa viene in qualche modo sacrificato per una mancanza di peso negoziale italiano, eccetera. È un po' questo? Sicuramente anche per questo. Ci sono altri paesi che escono meno danneggiati da noi. L'agricoltura italiana ancora una volta esce male, e ne esce male ancora di più quella del sud, del centro-sud. Penso al fatto che con l'azzeramento strutturale del dazio, sul grano duro, noi di fatto rendiamo ancora più semplice l'importazione di grano duro dal Canada, che ha una sostanziale differenza rispetto a quello italiano. Quello italiano essica al sole, mentre quello canadese essica attraverso l'utilizzo di un principio chimico che è il glifosato, ritenuto potenzialmente cancerogeno, e che la devono utilizzare perché non hanno sole a sufficienza. Quindi ci sono queste situazioni che non funzionano. E poi c'è la questione più grave, che è generale e che ci vede ancora più preoccupati rispetto alla questione del CETA in modo trasversale su tutti i prodotti. Nel CETA di fatto non c'è alcun riferimento al principio di precauzione, che è la l'elemento chiave rispetto al quale noi nell'agroalimentare decidiamo ciò che è possibile fare, ciò che è possibile fare in anticipo, e quindi vietiamo tutto ciò che può essere potenzialmente generatore di rischi per l'ambiente o per la salute. E poi c'è un altro principio pericoloso: l'equivalenza delle misure sanitarie e fitosanitarie. Che cosa vuol dire? Dobbiamo abituarci a considerare equivalenti due sistemi di produzione, quello italiano ed europeo, rispetto a quello canadese, che sono in realtà molto diversi. Cioè, in Canada oggi si utilizzano un centinaio di principi chimici, quindi di fitosanitari, di erbicidi, che sono da noi banditi da 20-30 anni perché considerati pericolosi per l'uomo e per l'ambiente. Siamo all'assurdo che in Canada, si utilizza un antibiotico per disinfestare il terreno, la streptomicina, che in Italia è vietato dal 1971. Cioè, ci sono differenze notevoli e noi attraverso il CETA non abbiamo nessuna garanzia di poter fermare questi prodotti, anzi attraverso questi principi di equivalenza dobbiamo andare verso una stagione in cui consideriamo equivalenti a prescindere modalità di produzione che sono profondamente diverse. Per questo diciamo no al CETA, sia per quello che crea rispetto al ai rapporti commerciali Europa-Canada, sì. ma sia perché crea un precedente molto pericoloso rispetto ai nuovi accordi internazionali. Io devo fare un altro paio di domande, anche su un altro paio di argomenti, però forse Carlo voleva, scusi, aggiungere una cosa su questa questione. Carlo, sì, scalpitare. Volevo capire, perché una delle cose incredibili, secondo me, di questo accordo è che sulle 291 denominazioni dei prodotti, quindi i prodotti che nominava anche prima, su 250 non c'è nessunissima tutela. E io questo è un altro motivo per cui di fatto noi legalizziamo la pirateria, perché da un lato consentiamo la coesistenza di questi prodotti, no? Dall'altro noi su 281 DOP ne abbiamo 250 su cui assolutamente non diamo nessuna protezione, e quelle 41 che proteggiamo, la cosa che le volevo chiedere, diciamo a metà. la cosa che le volevo chiedere è questa, perché mi sembra che ci sia un problema, perché se noi ci muoviamo come comunità europea, in realtà c'è una grossa differenza anche tra tutti noi paesi europei, perché l'Italia ha una quantità di prodotti incredibili, eccellenti per tutto il mondo, che altri paesi europei non hanno, quindi senza offendere nessuno, immagino che, non so, la Polonia sia meno preoccupata dal CETA. Ovviamente, noi abbiamo il maggior numero di indicazioni geografiche, quindi esatto. E abbiamo anche il problema del falso made in Italy, che è un problema enorme, che vale 60 miliardi di euro e che è dovuto al fatto che il nostro cibo ha una grandissima reputazione. Allora, o noi lo combattiamo, come ci stiamo dicendo da anni, oppure se ratifichiamo il CETA, di fatto acconsentiamo che la coesistenza e che quindi il falso made in Italy possa esistere in coesistenza con il nostro. Cosa prevede possa accadere, Moncalvo? Che ci sia una... Abbiamo creato un dibattito importante su questo tema, che era il nostro primo obiettivo, fare in modo che i parlamentari potessero approfondire, prendersi tempo per poter e questo andare sappiamo che lo stanno avanti. Facendo, ma e lei pensa che accadendo. Si possa in qualche modo cambiare strada? Io penso che in questi momenti in cui si possa solo dire sì o no, l'Italia dovrebbe avere il coraggio politico di dire no a questa modalità di fare accordi internazionali, per aprire una discussione seria su accordi internazionali che non siano più legati solo alla dinamica del prezzo, del dazio e del contingente, ma che impongano come primo elemento l'elemento delle regole e delle regole a tutela della sicurezza alimentare e dell'ambiente, perché le due dinamiche sono spesso molto collegate. È vero che diventa difficile poi difendere in Italia una qualità, un disciplinare, delle regole, anche dei diritti, la lotta al caporalato eccetera, quando poi si apre il mercato a merci che vengono a bassissimo costo da mercati dove tutto questo non c'è. Le voglio chiedere un paio di cose però ancora a Moncalvo. Una riguarda gli incendi. Stiamo attraversando una fase terribile, forse mai così negli ultimi anni, tanti incendi in tutta Italia. Un tempo diceva che erano anche i contadini che facevano piccoli incendi per bruciare delle sterpaglie o per eliminare delle erbacce, e che poi la cosa spesso e purtroppo sfuggiva di mano. Esiste ancora questa pratica, no, che andrebbe condannata? Gli agricoltori, ovviamente i veri agricoltori, sanno intanto quando utilizzano questa pratica non la utilizzano nei boschi, ma la utilizzano nei campi coltivati, la utilizzano solo quando a fine coltivazione c'è un residuo in alcune coltivazioni da bruciare, ma qui stiamo parlando di tutt'altro. Qui stiamo parlando, come abbiamo visto, insomma, è letto che ci sono incendi dove evidentemente c'è la mano di qualcuno, di qualche scellerato, piromane o criminalità organizzata che sta scegliendo di fare questo. In tutto questo sono andati in fumo migliaia di ettari di boschi, ma anche 2500 ettari di terreni a pascolo, a vigneto, a oliveto, che erano vicini a questi boschi, quindi il danno è molto molto importante. Noi stiamo investendo in questa fase insieme con Federforeste e con gli agriturismi di Campagna Amica per fare in modo che, proprio in virtù insomma dell'esperienza negativa forse più forte di quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni, abbiamo bisogno di investire ulteriormente perché ad esempio i nostri agriturismi che vogliono impegnarsi su questo possano diventare in qualche modo sentinelle dello stato di salute dei boschi, ma anche possano impegnarsi, visto magari. La legge lo consente, a diventare per conto dello Stato quelle realtà che possono, nei mesi in cui non c'è l'emergenza incendi, gestire meglio. Visto che non abbiamo più, tra l'altro, un corpo forestale, anche se qualcuno dirà è stato riassorbito nei carabinieri. Visto che negli ultimi anni i boschi sono cresciuti e oggi coprono un terzo della superficie nazionale. L'ultima cosa che le voglio chiedere è un gioco, diciamo così, perché sappiamo che dobbiamo comprare i famosi prodotti di stagione, no? Proprio per incentivare tutto quello che abbiamo detto fin qua, la qualità, il rispetto della natura e anche di noi stessi da questo punto di vista. Ma c'è un prodotto sentinella adesso che, se lei lo vede in un supermercato, dice no, questo no, tipo il lato oscuro della forza, proprio un prodotto che non ci deve essere adesso e che invece si vende, prodotto fuori stagione? Se noi pensiamo ai prodotti dell'agricoltura italiana, in questo momento io non posso vedere arance al supermercato pensando che siano arance italiane, mentre anche posso al bar se vado mi fanno la spremuta d'arancia in questo momento evidentemente non sarà italiana, mentre invece posso contare in questo momento dell'estate su tantissima frutta estiva, peraltro quest'anno grazie al caldo molto molto anche albicocche, pesche meravigliose e poi anche le prime varietà

Io lo dico buongiorno. In italiano perché tutto, sì, l'ha detto benissimo. Perché tutto in inglese, qua non se ne può più di tutto questo inglese. Allora. Di Leroy Merlin in italiano, Alessio. Leroy Merlin mi viene bene perché il francese lo so e quindi ecco fatto. Esatto. Allora, l'iniziativa è questa. Sono tre iniziative in realtà che mettono in gioco Leroy Merlin, Agora dell'Abitare, Bricolage del Cuore, Empori fai da noi. Lascio a lei, Luca, di spiegare come avete cercato di dare una mano alle persone che vogliono ristrutturare la loro casa, fare dei piccoli lavoretti, e siete arrivati voi. Allora, grazie. Diciamo, noi tutta l'attività di responsabilità sociale l'abbiamo impostata appunto sul tema casa, perché siamo un'azienda che lavora per la decorazione, la manutenzione della casa, e quindi ci sembrava giusto che tutte le azioni fossero pienamente in linea con lo stesso business dell'azienda. L'altra cosa fondamentale, che poi notavo in comune con tutta la vostra trasmissione, è il tema fare. Sì. Quindi azioni, uno da un lato, molto concrete, e proprio sul fare, può essere un fare nostro, ma anche un fare dei beneficiari o di chi partecipa ai benefici. Quante persone siete riuscite ad aiutare? Come vengono selezionate, tra l'altro, le persone che possono rientrare nel vostro aiuto? Allora, per iniziare, ad esempio, citava ad esempio il Bricolage del Cuore. Il Bricolage del Cuore è attività di volontariato d'impresa in cui noi mettiamo a disposizione delle ore di noi, di collaboratori, sì, materiale e soprattutto le competenze, magari non sono le mie, che a livello pratico sono molto scarse, però appunto i colleghi dei negozi possono davvero portare e fare la differenza. Come vengono selezionati i progetti? Quello su cui ci diamo molto è che siano progetti che nascono appunto da un volontariato impresa, e quindi deve essere progetti che più delle volte sono proposti dai stessi collaboratori, dei miei stessi colleghi. Quindi può nascere, quindi, tutto anche dai vostri collaboratori che conoscono, sì, sì, anzi, come sentinelle su sul territorio. Sì. Sì, sì, noi non facciamo contratti quadro, accordi con un'associazione stessa, perché proprio facciamo, noi abbiamo 48 punti vendita, quindi siamo su tutto il territorio, e quindi è proprio chi vive sul territorio che magari conosce bene quali possono essere le esigenze, e poi anche dal punto di vista motivazionale. Ma importante. Se io volessi venire da voi e chiedervi una mano, o per avere un attrezzo in prestito, o per avere qualcuno che mi dà un aiuto, come posso fare? Lo posso fare? Ma allora, su questo ad esempio abbiamo lanciato a fine 2016, abbiamo iniziato a aprire quelli che abbiamo chiamato gli Empori fai da noi. Sì. Sono dei luoghi che gestiamo noi, il materiale facciamo gestire a delle associazioni partner, quindi sono all'esterno del negozio. E quindi la base di tutto in questo caso sono i vostri negozi, ha detto quasi 50 sparsi in tutta Italia. Le devo togliere la parola perché dobbiamo chiudere. E tra l'altro, grazie Luca Pereno. Caro Carlo Gabardini, noi ci risentiamo quando? Chi lo sa? Chi lo sa, è l'ultima puntata. Chi può dirlo? Che tu non mi voglia licenziare in diretta. Ma no, ma io ti abbraccio tantissimo virtualmente. È così come abbracciamo tutti i nostri ascoltatori. E poi naturalmente esatto. Andrea Piana, Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli, Cristian Goldoni in assistenza in redazione. Oggi Filippo Reggi regia. Ciao da Alessio Maurizi. Solanno, e ciao da Carlo Gabardini, e ci vediamo alla Milano Sanremo del Busto qui al Festival Collisioni di Barolo. Buh, ciao.